Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono maestri che non insegnano solo delle nozioni, ma trasmettono la vita e spesso capiscono i loro allievi prima di chiunque altro. La nostra storia comincia proprio da uno di questi maestri. A Destini Incrociati è il 15 novembre del 1945, quando una donna, una semplice maestra di provincia, sola in casa, sente bussare alla porta. Si alza dalla sedia, stanca, e va ad aprire. Si trova davanti un postino con in mano una busta, provenienza Svezia. La donna pensa ai suoi viaggi, agli incontri che ha fatto nel corso della sua vita, ma non si ricorda nessun amico svedese. Apre la busta davanti al postino che deve accertare l'avvenuta consegna con una firma. La lettera riporta una notizia sconvolgente. La commissione Nobel ha deciso di assegnarle il premio per la letteratura. La donna vacilla, le tremano le gambe, si regge a un braccio del postino. Quella donna è una meravigliosa poetessa e il suo nome è Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Siamo in Cile, la terra della natura maestosa e infinita, la terra ricca di mistero e magia, che è anche una terra di poeti, che con i loro versi hanno cantato dolore e nostalgia, esilio e amore. Uno di questi è proprio Gabriela Mistral, umile maestra di campagna, che è arrivata a diventare uno dei simboli del suo paese e che i media celebrano con orgoglio. Gabriela Mistral es la más grande entre los chilenos. Alta di statura, con i capelli sempre raccolti, stesse scarpe per anni e abiti presi in prestito da amiche e parenti, Gabriela è come una zia brillante di buon senso che tutti vorremmo avere. Una donna che dice sempre le cose giuste al momento giusto, come ha imparato a fare fin da bambina. Lucila, vero nome di Gabriela, nasce a Vicuña nel 1889. Dalla finestra di casa il paesaggio è imponente. Le Ande, con le loro cime innevate, sono la prima immagine che Gabriela ricorda nella sua testa. Le disegna continuamente su qualsiasi cosa. Prima più alte, poi un po' meno, a seconda della luce del sole, le sembrano ogni volta diverse. Nel cortile usa i pezzetti di pietra che trova in giro per imprimerle sul muro. È come un'ossessione. D'altra parte, in Cile il paesaggio è un paesaggio dell'anima. Il cielo è azzurro, di un azzurro intenso, la luce è accecante. Quasi impossibile non restarne folgorati. È il paese dei grandi contrasti. Da un lato il deserto, arido, piatto, vuoto. Dall'altro i ghiacciai spigolosi. E poi il mare tempestoso, in perenne movimento. Le grandi distanze impongono una lontananza e una solitudine che porta alla meditazione. Vento, pioggia e nebbia non fanno che acuire la malinconia, lo struggimento. La natura è così dominante che forgia il carattere delle persone e non è un caso se questa terra in cui si passa dal gelo al caldo torrido ha partorito alcuni tra i più grandi poeti della storia che sono stati ispirati dalla potenza di questa natura, proprio come Gabriela che usa queste parole. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color de neblina, con edad de siempre, sin edad feliz. Ma se la natura la avvolge, la forza dei suoi versi è data anche dal suo vissuto difficile e tormentato. Il padre abbandona la famiglia quando lei ha solo 3 anni, rendendo la situazione difficilissima. Lo racconta Nivia Palma, una studiosa dell'autrice. Gabriela ha affrontato il peggiore degli scenari. Donna povera, di campagna, con una famiglia scoppiata, con origini indigene e con il suo spirito irriverente, creativo e politicamente scorretto. Politicamente incorretta. Crescere circondata da donne la influenza tantissimo. Mamma, sorella, cugine, zie, un matriarcato tradizionalista che le fa conoscere l'oppressione femminile, un tema che la tocca così tanto da farla diventare una convinta femminista. Gabriela non sopporta le ingiustizie, i soprusi, le dominazioni e lotta come può contro tutte le piaghe della società dell'epoca. Il maschilismo si può combattere solo facendo sì che la donna si senta alla pari dell'uomo, pensa. E l'unico modo perché questa emancipazione avvenga è attraverso la cultura. Le donne per Gabriela devono studiare e conoscere per imparare a giudicare con la loro testa. Un pensiero che oggi, almeno in Occidente, può sembrare scontato, ma che per l'epoca era certamente rivoluzionario. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you with. Woman is the slave of the slave. Ah, yeah. If you believe me, you better scream about it. In quei primi anni del Novecento in Cile sono in atto cambiamenti decisivi. Sull'onda del progresso i contadini cominciano ad andare in città in cerca di opportunità nuove e nascono i primi movimenti sindacali. Gabriela è una grande artista che con la sua sensibilità ha raggiunto il massimo riconoscimento internazionale, il premio Nobel. Eppure, nonostante questo suo smisurato talento, non è mai venuta meno al suo ruolo di insegnante. Una scelta, quella di diventare maestra, che ha radici ben profonde. Una scelta maturata in conseguenza di un episodio ben preciso della sua infanzia. Gabriela ha 13 anni. È seduta composta come sempre al suo banco e intenta a scrivere. La maestra entra in classe e davanti a tutti la accusa di avere rubato un quaderno. La prende per un orecchio, la trascina fuori dalla classe e la umilia pubblicamente. I compagni la deridono, la accusano di essere una ladra e lei in un angolo vorrebbe lasciarsi morire dalla vergogna. Non si dimenticherà mai quel momento infernale per tutta la vita. Quella signora non mi ha insegnato niente di più di mia sorella. Quando torno al mio paese natale, evito la piazza in cui è successo. La piazza in cui sono stata rincorsa dai miei compagni che mi urlavano ladrona. Gritandomi ladrona, ladrona. Gabriela abbandona la scuola. Il dolore per lei è immenso, ma la vergogna è ancora più grande. Non sa reagire, timida com'è, e abituata a stare sempre in disparte. La sua statura sopra la media le causa complessi tali da indurla a stare gobba, quasi per mettersi al pari degli altri. Il suo corpo non le piace. Si rifiuta di guardarsi allo specchio e tutta questa mancanza di autostima la rende profondamente insicura. A raccontarlo è un'amica di Gabriela. Gabriela non si è mai sentita bella. E quando l'ho conosciuta io penso che già si accettasse di più. Ma so che non si è mai sentita né bella né amata. La solitudine, se è una sofferenza per lei come donna, è al contempo il motore della sua creatività. Gabriela passa le ore a guardare la natura fuori dalla finestra, estraniandosi a volte completamente. La sola cosa che le interessa è imparare, immagazzinare come una spugna. E così continua a studiare da autodidatta. A soli 9 anni scrive già poesie che recita nelle feste di paese. È un genio precoce e, come spesso accade, incompreso. Ed è a questo punto che matura la scelta di diventare insegnante. Se la sua maestra non è stata in grado di proteggerla e anzi l'ha umiliata davanti a tutti, privandola delle gioie della scuola, lei invece diventerà una brava maestra. Una maestra in grado di ascoltare e comprendere i suoi alunni e di guidarli in classe e nella vita. Proprio come farà soprattutto con uno dei suoi scolari, un bambino povero e timido, almeno quanto lei, che il destino ha voluto metterle sulla sua strada. Già a 14 anni insegna a leggere e scrivere in un piccolo paese vicino al suo. È profondamente convinta che i bambini vadano rispettati tanto quanto i grandi. Per aiutarsi con le spiegazioni si cimenta in filastrocche infantili, così raffinate ed efficaci, da sedimentarsi nella memoria di tutti gli scolari cileni, anche delle generazioni successive. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. Sono proprio le filastrocche che la rendono famosa, le storielle per bambini che scrive con un rispetto del tutto nuovo per l'infanzia. Si dedicherà sempre a loro, alternando l'amore per i ragazzi alla scrittura. Il suo approccio all'insegnamento è del tutto innovativo. Vuole aule aperte perché i bambini parlino tra loro, grandi finestre perché possano perdersi nella natura. Perché per lei volare con la fantasia è quello che fa diventare grandi. Un pensiero che la accomuna a un altro grande scrittore italiano che a lei e al suo lavoro si è ispirato, Gianni Rodari. Il bambino non è una freccia che va in una unica direzione, la scienza, la curiosità delle cose. È un campo di frecce che vanno in tutte le direzioni. E c'è anche la freccia della fantasia, la freccia dell'immaginazione. Poi io non vedo opposizione tra immaginazione e spirito scientifico. Anzi, Trovo che non ci sarebbe spirito scientifico se non ci fosse immaginazione. I bambini sono la sua vita e i suoi allievi per lei come figli. Tutti, nessuno escluso. Ma c'è un bambino che ha qualcosa di speciale. Si chiama Riccardo, è timido, non parla mai con nessuno. Gli altri lo prendono sempre in giro. E Gabriella istintivamente lo difende, riconoscendo in lui quello che era stata lei a sua volta. Riccardo intanto reagisce chiudendosi sempre di più e cominciando a scrivere. Gabriella, l'unica persona di cui si fida, legge le sue poesie e lo incoraggia a continuare. Piano piano si convince che il ragazzino è un talento e innesca una battaglia con il padre di lui perché lo lasci partecipare a un concorso di poesia. Il padre non vuole, ma Gabriella non molla, sente che questo ragazzino farà grandi cose e il suo intuito non sbaglierà. E vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma palomita, ay, ay paloma, ay, ay paloma. Gabriella è un'adolescente responsabile, seria, dalla moralità rigida, che fa contrasto con il fervore dei suoi scritti, giudicati in patria all'inizio così radicali, rivoluzionari, perfino atei, da costringerla a cambiare il suo vero nome. Lucila De Maria de Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga in Gabriella Mistral. A raccontarcelo è Pedro Pablo Zegers, della Biblioteca Nazionale Cilena. La maggior parte degli scrittori di quell'epoca era fatta da uomini, perciò una donna che scriveva, per di più giovane, e che scriveva cose vietate, era impossibile per l'epoca. Ma non è solo combattiva, è anche vitale, appassionata. Nella scrittura mette tutta l'energia che ha, è autocritica, scrive, riscrive, non è mai contenta. Perfino al momento di pubblicare il suo capolavoro, Tala, sarà dubbiosa, si chiederà se le poesie sono abbastanza buone. È meticolosa ed esigente, chi la conosce non esita ad affermarlo. Generalmente Gabriella scriveva in camera sua, con in mano una lavagnetta, e correggeva mille volte. A volte stava leggendo un libro, le veniva in mente una poesia e se la puntava dietro la copertina. Poi chiudeva il libro e la sera ci chiedeva dove avesse messo la poesia e noi tutti l'aiutavamo a cercare il libro. L'insegnamento è la vita di Gabriella, così come la scrittura. Non riesce a scegliere, porta avanti l'uno e l'altro in parallelo. È disciplinata e precisa quando compone versi, ma molto romantica. Ha il mito dell'amore, delle anime gemelle e a 17 anni troverà la sua. Lui si chiama Romeo Ureta, lavora alle ferrovie e si innamora di lei perdutamente. Vuole garantirle un futuro migliore, per questo va a cercare fortuna al nord del paese, promettendole di sposarla al suo ritorno. Lei aspetta impaziente, gli scrive lunghe lettere e i giorni sembrano passare più veloci. Ma quando lui torna, la lascia per un'altra donna. Il dolore di Gabriella è immenso, la delusione è la tormenta. Quando Romeo per debiti si uccide, Gabriella sente di volersi lasciare morire con lui. Distinto, non curandosi della presenza della moglie, la donna che Romeo ha scelto al posto suo, corre a casa loro e si mette a cercare nelle tasche della sua giacca abbandonata. La moglie urla, un misto di disperazione e gelosia, ma Gabriella è sicura che Romeo ha lasciato qualcosa per lei. E infatti trova un biglietto, in cui lui le dichiara tutto il suo amore. Gabriella è affranta e l'unico modo che ha per reagire è scrivere. È così che nascono i sonetti sulla morte più struggenti che siano mai stati scritti. Gabriella però è quasi imbarazzata di aver reso pubblico il suo dolore. Si sente quasi in colpa per aver messo nero su bianco un sentimento così privato. E non trova giusto che il mondo, leggendo quello che ha scritto, perda la sua felicità per soffrire con lei. Sente l'urgenza di chiedere scusa per quel grande capolavoro che lei reputa soltanto uno sfogo intimo. Lo racconta lo scrittore Jaime Quesada. Questi poemi sono veramente desolati, dice lei. Dio mi perdoni per questi libri amari e mi perdonino gli uomini che hanno bisogno dell'allegria di un amore. Gabriella, sola, triste, disperata, lascia la cura dei suoi bambini e incomincia a viaggiare perché il governo del Cile la nomina ambasciatrice. L'incarico è una benedizione. Finalmente lei, povera maestra di campagna, può conoscere il mondo. Va in Italia, in Francia e poi in Spagna. È qui che un episodio la costringe poi a scappare. A una riunione ufficiale si sta discutendo di questioni che riguardano la politica estera e Gabriela sta per intervenire. Ma un membro del governo spagnolo si alza in piedi di scatto e fa quella che reputa una battuta. L'unica cosa buona che ha mai fatto il Cile è lasciarsi conquistare dagli spagnoli. Qualcuno ride, qualcuno è perplesso, qualcuno protesta. Gabriela diventa furiosa. Per sfogarsi scrive una lettera alla sorella nella quale esprime tutto il suo disgusto per gli spagnoli. Per un errore, però, la lettera finisce nelle mani sbagliate e viene resa pubblica. Il pasticcio diplomatico la costringe a lasciare la Spagna e rifugiarsi in Portogallo. Tutti i suoi amici europei, il filosofo Henri Bergson, la scienziata Marie Curie, lo scrittore Miguel de Unamuno, la difendono. Anzi, spingono perché Gabriela diventi console a vita. Le vogliono bene e sanno che i viaggi sono un nutrimento essenziale per la sua anima. Un giornalista cileno esprime così lo spirito di Gabriela. Hablar de Gabriela Mistral es hablar de la historia del mundo. Nonostante i viaggi, quel 15 novembre del 1945, quando il postino le consegna la busta più importante della sua vita, Gabriela è a casa. Il destino sa quando bussare. Quando legge che la commissione Nobel ha deciso che le daranno il premio, si versa un bicchiere d'acqua, continua a rileggere, incredula, ma non c'è nessun errore. È proprio lei, Gabriela Mistral, maestra di provincia e autodidatta, che sta per ricevere il premio Nobel per la letteratura. In un vezzo tutto femminile, Gabriela apre l'armadio di colpo e si rende conto che non ha niente da mettersi per la cerimonia. Intanto si sparge la notizia, cresce l'attesa. I suoi bambini a scuola non sanno neanche cos'è il premio. E quando Gabriela cerca di spiegarlo su richiesta dei genitori, si distraggono continuamente. Gabriela pensa a un suo vecchio alunno, a Ricardo Reyes Basoalto, quel Ricardo a cui lei teneva particolarmente. Sa che una buona maestra non dovrebbe avere un alunno preferito, ma Riccardo aveva davvero qualcosa di speciale. Lui non si sarebbe di certo distratto. Sobre il manto della noche sta la luna chispeando. Sobre il manto della noche sta la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, samba, zambalando, ¿qué tienes tú, samba, que no tenga yo? Destini incrociati. A destini incrociati siamo in Cile, terra di altopiani e indio, montagne e poeti. Ed è proprio di una grande poetessa che stiamo parlando, Gabriela Mistral, semplice maestra di campagna che nel 1945 diventa il premio Nobel della letteratura di tutto il Sud America. E così kommer kvällens absolut största ögonblick, det då Gabriela Mistral träder fram. De mano de su majestà el rey, el premio Nobel de literatura. Che le ha sido otorgado a usted por l'Accademia Svezia. Ogni premio Nobel è discusso a lungo e la sua assegnazione viene sempre accompagnata da un'approfondita motivazione. In quella di Gabriela Mistral si legge: per la sua lirica, ispirata da forti emozioni, che ha fatto del suo nome un simbolo delle aspirazioni idealistiche dell'intero mondo latinoamericano. Quando riceve il premio, Gabriela è incredula, commossa. E nel suo discorso di ringraziamento si percepisce una profonda umiltà. Membri della Casa Reale, della Fondazione Nobel e dell'Accademia, mi avete dimostrato nei vostri discorsi un grande interesse per il Cile e per l'America del Sud. Grazie per questa lezione che ho ricevuto e che conserverò nella mia memoria come un capitale di speranza per la mia patria e per me stessa. Gabriela viene celebrata in tutto il Cile, ne è lusingata, ma mentre tutti la cercano per conoscerla, per parlarle, per intervistarla, lei vuole solo ritrovare la natura della sua infanzia, la magia dei luoghi che aveva amato, perdersi di nuovo. L'unica persona che accoglie a braccia aperte è Ricardo, quel bambino che a scuola aveva protetto come un figlio e che contro il volere di tutti aveva spinto a scrivere. Quel bambino ora è cresciuto, ha più di 40 anni, ma è ancora legatissimo alla sua maestra. Prova per lei un'infinita riconoscenza, perché Gabriela è stata l'unica a credere in lui fin dal principio. Ma qual è la storia di Ricardo? È il 1904 a Parral, sud del Cile, quando il piccolo Ricardo viene alla luce. Sua madre, malata di tubercolosi, muore soltanto un mese dopo. Di lei non ci sono fotografie, ma un giorno, mentre sta giocando con il figlio dei vicini, Ricardo apre un baule e ne trova una. La mette in tasca e la conserverà con cura per tutta la vita, come unico ricordo di sua madre. Suo padre, che lavora in ferrovia, poco dopo si risposa con quella che lui considererà sempre sua madre. Ma la donna più importante per Ricardo, la figura che gli fa da guida, che lo instrada nella scrittura, è proprio Gabriela Mistral. Lei è la sua maestra e crede così tanto nel suo talento da incoraggiarlo a comporre versi anche contro il volere del padre, che vorrebbe che diventasse funzionario pubblico. Gabriela lo incita ad ogni parola, lo sprona a continuare ogni volta che prende foglio e penna, gli infonde la sicurezza necessaria a dedicarsi una volta per tutte alla scrittura. Così Ricardo prende coraggio e smette di studiare francese. Litiga definitivamente con suo padre e nel 1921, con il suo manoscritto sotto braccio, tenta la fortuna a Santiago. Vuole abbandonare il vecchio Ricardo, rinascere. In autobus verso la città sta leggendo un libro che gli ha dato Gabriela. Sono poesie di un autore di Praga, Ian Neruda. Per Ricardo è una folgorazione. Ora lo sa. Farà anche lui il poeta e per rendergli omaggio si farà chiamare Pablo Neruda. Pablo Neruda. Negli anni 20, Pablo Neruda è appena arrivato a Santiago dalla campagna. La città è nel pieno del suo splendore culturale e la nuova vita è eccitante. Pablo vive il fermento, incontra intellettuali, donne, si innamora e soffre. Scopre la sua vera identità di uomo e poeta. Ma è povero. Suo padre non gli manda più soldi, visto che ha voluto fare di testa sua, seguendo i consigli della sua maestra. E così il giovane capisce cos'è la vera miseria. Lo racconta Hernán Loyola, il suo biografo. Neruda conduceva un'esistenza, dal punto di vista economico, davvero miserabile. Scriveva a sua sorella che non era abituato a non mangiare tutti i giorni e le chiedeva aiuto. L'unica cosa di valore che gli è rimasta è un orologio di suo padre. Quando decide di pubblicare la sua prima raccolta di poesie è costretto a venderlo al Banco dei Pegni. Poco male, poiché grazie a quel gesto che tutta l'umanità oggi può leggere il suo grande capolavoro, 20 poesie d'amore e una canzone disperata. Il libro proietta Neruda, a soli 20 anni, nell'Olimpo dei grandi della letteratura. Ma a Santiago, intanto, la povertà si fa davvero critica per tutti. Varios de sus amigos murieron de miseria, letteralmente. Pablo decide che è giunto il momento di conoscere il mondo e inizia a viaggiare. Come la sua maestra Gabriela, in un destino che si ripete anni dopo, viene chiamato a fare il console per il suo paese e nel 1936 va a Madrid in veste diplomatica. A Madrid Neruda entra in contatto con i grandi della cultura del momento, con gli scrittori Rafael Alberti, García Lorca e il pittore Picasso. Il clima è sereno, la creatività nell'aria. Pablo scrive, si innamora di Delia, pittrice più vecchia di lui di 20 anni. I due vivono una storia intensa, sono felici, fino al tragico giorno. Luglio 1936. In Spagna scoppia la più terribile delle guerre, la guerra civile. I morti nelle due fazioni, nazionalisti da una parte e repubblicani dall'altra, sono migliaia. Lo stesso Lorca viene ucciso e moltissimi intellettuali sono costretti all'esilio. Neruda torna in patria e aiuta quasi 1000 profughi politici a entrare in Cile. È un filantropo, sta dalla parte di chi ha bisogno. Anche Gabriela intanto si occupa dei profughi e in particolare, come al solito, dei bambini. Dona tutti i proventi del suo ultimo libro alle piccole vittime della guerra. Per Neruda, come per la sua maestra, la poesia e la vita civile vanno di pari passo. Non c'è poesia senza impegno. Il ruolo del poeta è farsi carico delle ingiustizie, come ricorda lui stesso. Io ho vissuto le tragedie del mio popolo e per questo ho scritto poesie politiche. E questo è il mio modo di partecipare alla vita civica, perché un uomo non è un uomo se non partecipa alla vita del suo popolo e un poeta non è un poeta. Neruda, divenuto senatore, difende i lavoratori sfruttati, combatte per eliminare la schiavitù dei più deboli, si fa carico di dare voce a chi voce non ce l'ha. Un altro dei grandi insegnamenti della sua amata maestra Gabriela, che, come ripete Nivia Palma, studiosa della poetessa, non si è mai stancata di ricordare la grande ricchezza che gli umili hanno sempre portato. Gabriela criticò quelli che si erano dimenticati da dove veniva il Cile, quelli che si erano dimenticati la forza degli indigeni cileni. Le rivendicazioni civili di Neruda sono così forti da costargli la libertà. La polizia lo cerca ovunque. Lui vive da clandestino ed è costretto a scappare dal Cile. Solo che le frontiere sono tutte controllate e il suo volto è troppo famoso per passare inosservato. Ha una sola possibilità: attraverso la cordigliera, con mezzi di fortuna, seguendo il cammino dei contrabbandieri. L'impresa è quasi eroica, come racconta un'amica. Doveva spostarsi a cavallo ed era un uomo di 140 kg. Era durissima solo salire a cavallo e poi starci per 3 giorni. Neruda rischia. Non ci sono sentieri. Ha 2 incidenti che quasi gli costano la vita. Ma affronterebbe qualsiasi cosa pur di non perdere la sua libertà. Ed è questo grido di speranza che mette nelle sue poesie. Y no es mucho pedir, tenemos tanto y sin embargo tan poco tenemos que no es posible que esto continúe. Este es mi canto. Finalmente anche per lui arrivano tempi migliori. Va a vivere a Isla Negra, davanti a lui c'è l'immensità dell'Oceano Pacifico e con lui c'è un nuovo amore, Matilde, conosciuta in Messico e molto più giovane di lui, che gli riordina letteralmente la vita. Gli organizza i pasti, gli programma le sieste, gli permette, insomma, di dedicarsi soltanto a quello che ama, la poesia e il collezionismo. Neruda colleziona oggetti da tutto il mondo. Ogni oggetto, per lui, sostituisce un gioco che non ha avuto da bambino. Il periodo di Isla Negra è felice, prolifico. Neruda qui scrive ben 41 libri. E si diverte ad accogliere chiunque nella sua enorme casa, dal più grande degli artisti al più modesto dei pescatori. Ed è proprio ai mesi sull'isola che è ispirato il film Il Postino, con cui nel 1996 Massimo Troisi conquista il premio Oscar. Parliamoci chiaro. Che cosa ti ha detto? Metafore. Metafore? E chi non dice mai che parla così difficile? E che metafora ti ha fatto? Fatto. Mi ha detto. Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? Quando mi ha detto così, io ho riso. Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. E allora che avete fatto? Sono rimasta zitta. È lui? Cosa mi ha detto? No, cosa ti ha fatto? Perché il tuo postino, oltre alla bocca, tiene pure 2 mani. Non me ne è neppure toccata. Ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura. La storia, tratta dal romanzo dello scrittore cileno Antonio Skármeta, racconta l'amicizia tra un umile figlio di pescatori, Mario, e il grande poeta Neruda, a cui Mario consegna la posta. Ma il postino a volte consegna più di una semplice lettera. È il 1971. Neruda è a tavola, circondato dagli amici. Si chiacchiera, si ride, si beve tanto. Al punto che quando suonano alla porta, nessuno se ne accorge. Ma continuano a suonare. La consegna è troppo importante. Neruda, camicia slacciata e cintura dei pantaloni allentata per il troppo cibo, va ad aprire. La lettera viene dalla Svezia. L'apre. La sua mente va al racconto che le aveva fatto Gabriela. Il destino sa quando bussare. Neruda chiama gli amici a leggere e da loro la conferma. 26 anni dopo la sua maestra, e grazie alla sua fondamentale influenza a scuola e nella vita, anche lui ha un appuntamento con il premio Nobel. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Destini incrociati. Destini incrociati oggi racconta le vite intrecciate di una maestra e del suo alunno. Lei è Gabriela Mistral, lui Pablo Neruda. Entrambi cileni, entrambi poeti, entrambi vincitori del premio Nobel per la letteratura, il riconoscimento di maggior prestigio internazionale. E se Gabriela, che ha cantato il dolore, la morte e la vita in modo sublime, è ricordata soprattutto per le sue filastrocche per bambini, che si sono sedimentate nelle menti di intere generazioni di cileni, Pablo, invece, è considerato all'unanimità il più grande poeta dell'amore di tutti i tempi. Se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi sulla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare altra terra. Ma se ogni giorno, ogni ora, senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ahi, amore mio, ahi mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica. Il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai, starà tra le tue braccia, senza uscire dalle mie. Gli americani, data la loro abitudine di trovare sigle e soprannomi, lo chiamano così. GLP, the greatest living poet. Pablo Neruda, il poeta più letto dopo Shakespeare, è l'uomo che con i suoi versi è riuscito a esprimere quel sentimento inafferrabile che è l'amore, donando un linguaggio nuovo agli innamorati dei cinque continenti. I suoi libri sono stati tradotti in 35 lingue, incluso il dialetto indù, e il suo successo è planetario. Eppure lui si sente un uomo come gli altri, un uomo del suo popolo. Ora, fondamentalmente... Fondamentalmente sono un uomo del popolo, del mio paese. Quando nel 1971 gli consegnano il premio Nobel, il suo pensiero, come era stato per Gabriela, va al suo Cile e a tutto il continente sudamericano, per troppo tempo in disparte nella storia del mondo, e che ora, proprio grazie alla poesia di Mistral e di Neruda, alza la testa e si mostra fiero ai cinque continenti. Questo riconoscimento che mi hanno fatto ha avuto un eco nella coscienza di tutto il continente latinoamericano. Non è importante solo per me. Nel mio paese e in tutti i paesi sudamericani abbiamo sempre lottato per la nostra formazione e questo premio, come è stato prima per Gabriela Mistral, dà la forza a tutti. Dopo Mistral e Neruda, l'interesse per il Sud America e la sua letteratura cresce a dismisura. E molti sono gli autori entrati nel cuore dei lettori di tutto il mondo. Uno su tutti, Gabriel García Márquez, colombiano, autore del leggendario Cent'anni di solitudine, con cui si dà il via a quel filone narrativo tipicamente latinoamericano che è il realismo magico. Nel 1982 anche lui conquista il premio Nobel per la letteratura. Gabriel García Márquez acaba de ganar el premio Nobel de literatura. Repito, Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura. Il Cile, in particolare, complice il suo paesaggio struggente, è il paese che continua a sfornare scrittori prolifici e di successo. Tra gli altri, Francisco Coloán, Antonio Scarmeta, Luis Sepúlveda e Isabel Allende, che ha potuto dedicarsi ai romanzi grazie all'aiuto economico di un cugino di suo padre, il presidente cileno Salvador Allende. Santiago del Cile. È l'11 settembre 1973, il primo dei tragici 11 settembre, una data quasi cabalistica. Salvador Allende è nel palazzo presidenziale, il Palazzo della Moneda, e sta riordinando gli ultimi documenti sulla riforma agraria. Prima ha già riformato il sistema scolastico, con l'obiettivo di fare accedere all'istruzione anche i cileni più poveri. All'improvviso si sente un colpo, poi un altro. Sono i golpisti, che guidati dal generale Pinochet stanno iniziando a bombardare il palazzo. Allende cerca fino all'ultimo di difendersi, ma viene ucciso nell'assedio. Pinochet prende il potere, dando il via a una dittatura repressiva e sanguinosa. Tutto questo Neruda lo sente dalla radio e la notizia lo distrugge. è già malato ed è costretto a stare a letto in ospedale. Morirà il 23 settembre, soltanto 10 giorni dopo il golpe. In pochi giorni muoiono la democrazia e la poesia. Siamo in Cile, è il 1973. Il generale Pinochet ha appena preso il potere con un golpe. Allende, il presidente, è rimasto ucciso nel palazzo presidenziale. Nei suoi discorsi non si era mai dimenticato di citare il ruolo di Gabriela Mistral e Pablo Neruda, entrambi figli di modesti lavoratori, nel fare grande il Cile. Un paese di circa 10 milioni di abitanti. Un paese di circa 10 milioni di abitanti. Che in una generazione ha dato 2 premi Nobel della letteratura, Gabriela Mistral e Pablo Neruda, entrambi figli di modesti lavoratori. Neruda muore 10 giorni dopo il golpe nella sua stanza di ospedale a Santiago e in Cile è il lutto nazionale. Al funerale ci sono migliaia di persone che urlano, piangono, si disperano. E l'occasione diventa contemporaneamente la prima manifestazione di protesta contro la neonata dittatura. I militari, tanta è la folla che cresce nel corteo, non riescono nemmeno a penetrare per soffocare la rivolta. L'ultima volta che si era vista così tanta gente nelle strade di Santiago, l'atmosfera era ben diversa. Neruda aveva appena preso il Nobel e tutti erano corsi a festeggiarlo, uomini, donne, vecchi, bambini. Le lettere, gli omaggi, i ringraziamenti gli arrivavano a fiumi da tutte le parti del mondo, da tutte quelle persone che leggendo i suoi versi si erano sentiti capiti, erano riusciti a esprimere il loro amore, avevano trovato una forza e una speranza. I cileni erano così orgogliosi e felici che Neruda riceveva telegrammi di stima e sostegno da tutti gli schieramenti politici, come ha raccontato lui stesso. Telegrammi da tutti i partiti politici, non solo del mio partito, il Partito Comunista, ma anche dal Partito Socialista, sino al Partito Cristiano. Proprio come era successo 26 anni prima alla sua maestra e mentore Gabriela Mistral, senza la quale, grazie al suo incoraggiamento, non avremmo mai ricevuto le poesie di Pablo Neruda. Pablo Neruda e Gabriela Mistral sono entrambi grandi poeti e grandi cileni e sono legati alla loro terra da un forte rapporto di odio e amore. Una terra che li ha prima costretti all'esilio, alla clandestinità e poi rivendicati con forza come orgoglio nazionale. Sulla tomba di Gabriela si legge: quello che l'anima fa per il suo corpo è quello che l'artista fa per il suo popolo. Neruda, invece, ha voluto che i suoi resti venissero portati a Isla Negra, l'isola in cui era stato davvero felice. Anche lui, come Gabriela, con la sua gente nel cuore. La vita, la luce, la poesia continuarán viviendo cuando yo solo sea un pequeño recuerdo en el luminoso camino de Chile. Why are fences still cold with flowers of the night, songs of the birds like hands call the earth. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.